Questo martedì 10 dicembre, i titoli, il Sole 24 Ore sceglie ancora la telenovela sull'IMU, così si paga il saldo IMU, sale il rischio maxi rata e tra poco vedremo di che si tratta. Poi le due notizie maggiormente sui giornali nelle prime pagine sono proprio la vicenda Renzi e la vicenda Forconi. Ore di guerriglia nelle città, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica, Renzi, cambio io la legge elettorale. Per la Stampa, tra Renzi e Letta un patto per il 2014. Il Messaggero, governo, le condizioni di Renzi. E il Fatto Quotidiano, Renzi, ora comando io. Ma c'è anche questa foto, Forconi, scontri e blocchi, poi giù i caschi degli agenti. Per il giornale, i poliziotti abbracciano l'Italia dei Forconi. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre invece l'Unità, Letta, Renzi, patto di un anno. Per il Manifesto invece il titolo è La Sinistra, ma non è scritto La Sinistra, ma L'apostrofo A Sinistra, cioè la non sinistra. Matteo Renzi, un po' arzigogolato come titolo, ma si sa, quelli del Manifesto sono anche molto intellettuali. Comunque, Libero, il forcone di Renzi, questo è il titolo, il trionfo di Matteo, bocciatura sonora al governo. Quindi Libero mette insieme le due cose, cioè Renzi in un disegno in braccia, impugna un forcone e punge nelle chiappe Letta e Napolitano. Questo è il forcone di Renzi per Libero. Io proprio da qui voglio partire, da quello che sta succedendo nelle piazze italiane, un po' annunciato, noi ne avevamo parlato la scorsa settimana, qualcosa avevamo anticipato. Ieri si sono viste le proteste in alcuni casi, come a Torino, anche con manifestazioni che sono degenerate in violenza, in altre regioni sono state più contenute. Tutti i giornali a chiedersi ora, ma chi sono queste persone, questo movimento variegato, certo, che mette insieme diverse sigle? Beh, intanto ha colpito moltissimo anche questo gesto che è stato ripreso e mostrato dalle telecamere di alcuni poliziotti che si sono tolti il casco. La motivazione era: il turno era finito. E quindi ci sono state anche a Genova alcuni abbracci tra i manifestanti e baci e i carabinieri. È interessante l'intervista che il Corriere della Sera pone a pagina 2-3, intervista di Virginia Piccolillo a un agente della polizia della Celere che viene chiamato Francesco, 38 anni, ma è un nome di fantasia. E il titolo dell'intervista, sentite un po', è questo: l'uomo della mobile a capo scoperto, anche noi oppressi dalle tasse. Abbiamo saputo a Torino, si sono tolti alcuni colleghi il casco antisommossa che indossano durante le manifestazioni e il turno non era ancora finito, anche se gli scontri che c'erano stati in mattinata erano terminati, era cessata la condizione di pericolo. Ma è sbagliato, chiede il Corriere, leggere ciò come un gesto simbolico di solidarietà con i manifestanti? No, non è sbagliato, risponde questo agente. Io personalmente, e anche altri colleghi, lo abbiamo vissuto con questo spirito, anche se è un gesto che qualche volta si usa fare per stemperare il clima. In questo caso, quando è arrivato un ordine in questo senso, lo abbiamo fatto davvero con piacere, perché i motivi che hanno spinto molta gente ieri a scendere in piazza li condividiamo. Le tasse troppo alte, gli stipendi bloccati, il disagio economico a cui dobbiamo sottoporre le nostre famiglie. Viviamo tutto questo sulla nostra pelle, anche noi non ce la facciamo più. Cosa è accaduto dopo che avete tolto i caschi? La gente applaudiva, ci dicevano bravi, ho visto un collega sfilarsi il casco e andare a stringere la mano a un manifestante, è stato un momento bello. Noi agenti di polizia guadagniamo 1.300 euro al mese, viviamo una situazione di estrema difficoltà, quando facciamo ordine pubblico stiamo tutto il giorno in strada, ci tagliano gli straordinari, la verità è che anche noi non ne possiamo più e se la situazione non cambia e anche piuttosto in fretta, molti vorranno legittimamente unirsi alla protesta con gesti di disobbedienza civile. Si può dar loro torto? Insomma, queste le parole molto forti di questo agente della mobile che è stato intervistato dal Corriere della Sera e che spiega, eccoli qua, i gesti, anche la distensione in strada, pagina 3 ci sono le foto di alcuni agenti di polizia che si tolgono il casco antisommossa. Il titolo è "Via i caschi, baci, strette di mano, i gesti dei poliziotti sono un caso". Le questure dicono sono atti che sono stati atti ordinari, mentre il sindacato SIULP, per esempio, che è il sindacato, se non sbaglio, più vicino alla CGIL, dice no, siamo solidali con i cittadini. Il nostro atto dimostra che la misura è colma e anche la politica è troppo lontana dai cittadini. Sta di fatto che tutti i giornali cercano di analizzare. Il Manifesto lo fa con un'intervista al presidente del Censis, Giuseppe Roma, anzi direttore generale del Censis, che dice, intervistato da Eleonora Martini, a pagina 7, nel caos la paura è nostalgica. Dice il direttore del Censis, è la rivolta contadina, la rabbia del lavoratore che esplode, indubbio che c'è un disagio che sa solo volgere lo sguardo ai tempi antichi, parte da una realtà di crisi profonda, di problemi concreti, ma anche un po' l'espressione di uno sbandamento dovuto al contesto in cui l'incertezza è il dato caratterizzante del tutto. C'è uno sbandamento di sistema che rischia di provocare reazioni esasperate e inconsulte. Piccole imprese, lavoratori autonomi di vari settori si trovano ormai in uno stato di incertezza che va al di là dei fattori macroeconomici. Questo non è più solo un problema di pressione fiscale, ma piuttosto di un contesto istituzionale confuso. Basti pensare a tutto il pasticcio dell'IMU. È un sistema che crea un liquido amniotico di caos. In più dobbiamo anche considerare che le società sono ormai davvero multipolari. Dice il direttore generale del Censis, non è un caso che le mobilitazioni e le proteste si siano concentrate nello stesso periodo in cui i partiti tradizionali hanno tenuto le loro assise, dal PD alla Lega a Forza Italia, il senso di una presenza per dire ci sono anch'io. Insomma, si ha un po' l'impressione che in questo momento la rivolta può pagare, quantomeno sul piano mediatico. Sta di fatto che vedrete anche immagini, foto a Torino, per esempio, di persone che lanciano le pietre. C'è un'analisi interessante anche di Giordano Bruno Guerri in prima pagina del giornale, che critica chi dà del fascista a questa manifestazione. Cioè, è vero che sono state anche forme di adesione di movimenti di estrema destra come Forza Nuova, ma Giordano Bruno Guerri in prima pagina del giornale scrive: se ogni violenza è fascista per definizione, questo è il titolo del suo commento, dopo i manganelli fascisti ci mancavano i forconi fascisti, che per fortuna non esistono. O meglio, ci sarà tra i forconi qualcuno con nostalgie o aspirazioni mussoliniane, ma non abbastanza per bollare tutto un movimento, bene o male che se ne pensi, come fascista. Decenni fa andava tanto di moda insultare qualcuno con quell'epiteto. In politica poi era un diluvio di fascisti. In realtà fascismo e fascista sono termini che a lume di storia e buonsenso hanno significati complessi. Personalmente ho dovuto scrivere una dozzina di libri e leggerne molti di più, scrive Giordano Bruno Guerri, per capire quel periodo storico. In definitiva si tende a bollare come fascista un movimento che agisce al di fuori di organizzazioni sindacali sacralizzate dal numero degli iscritti. E neanche questo è un fenomeno nuovo, erano fascisti anche quei poveri cristi, la rima è voluta, che volevano lavorare durante gli scioperi per una scelta politica o di bilancio familiare. Non è un caso, scrive ancora Giordano Bruno Guerri, io credo che ieri a Torino e a Genova carabinieri e poliziotti si siano tolti il casco e alcuni abbiano abbracciato i forconi non aggressivi. Non vi ricorda Pasolini e l'invettiva contro gli studenti piaggiati e borghesi dei poliziotti di Valle Giulia? Ecco, questa è l'analisi che trovate sul giornale. Ripeto, ci sono ancora interviste ai leader, chi sono? Il Secolo XIX, per esempio, mette insieme il siciliano e il leghista, così si è accesa la miccia. Mariano Ferro, leader dei Forconi, e Lucio Chiavegato, che fa parte di questi imprenditori, l'IFE, in Veneto, che si sono in qualche modo uniti nella protesta. Anche per il Fatto Quotidiano, a pagina 3, all'assalto senza avere un perché è l'ultima frontiera della rabbia. Molti di questi dicono tutti via, la politica ha rubato, insomma slogan un pochino qualunquisti anche in questo senso, bisogna cacciare tutti. Eppure dico dal Fatto Quotidiano, prima di andare in pubblicità, questa notizia che dovrebbe far loro brindare, pagina 13 del Fatto, i parlamentari rifiutano l'aumento. Caterina Soffici, udite udite, cari italiani, ecco, niente aumento, c'è la crisi, i parlamentari hanno fatto sapere che non intendono accettare l'aumento di stipendio dell'11% proposto da un'autorità indipendente. Ah, ma no, in Gran Bretagna, succede in Gran Bretagna, scusate, no, vabbè, non avevo detto questo piccolo particolare. I parlamentari inglesi rifiutano l'aumento, l'autorità indipendente di Westminster ha detto che bisogna aumentare gli emolumenti da 80.000 euro in corrispettivo in sterline fino a 80.000 euro, dai 74.000 annuali. È un'autorità indipendente che ha detto aumentate l'aumento ai parlamentari, ma i parlamentari inglesi dimenticavo questo piccolo particolare, hanno rifiutato, hanno detto è scoppiato il fronte trasversale di no, l'aumento in questo momento di crisi ci rifiutiamo, non lo vogliamo. Inglesi, scusate, sono inglesi, hanno rifiutato l'aumento, ma sono inglesi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci qua, allora avete visto la squadra presentata da Matteo Renzi per la segreteria del Partito Democratico, 7 donne, 5 uomini e poi un'età media di circa 37 anni, credo, 37 anni. Renzi, squadra di trentenni per cambiare, questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 13. È il giorno in cui sono state presentate le persone, appunto le facce, i nomi di chi si occuperà all'interno del Partito Democratico dei vari temi. Ovviamente ci sono varie interviste, per esempio a Federico Taddei che è il responsabile economico, viene intervistato da Andrea Carugati sull'Unità, è tra l'altro un civatiano, dunque molto vicino a Civati, ho partecipato, dice, alla prima Leopolda in cui Pippo e Matteo erano insieme, e dà sull'Unità alcune delle ricette, perché tanti adesso dicono, vabbè Renzi adesso dici qualcosa di concreto. Eccolo qui, Federico Taddei, responsabile economico, propone la sua ricetta. Lo Stato deve partire subito con una riduzione dell'IRPEF. Non è più possibile che se un datore di lavoro vuol dar 100 euro in più al mese al suo dipendente che guadagna 1.700 euro, questo ne incassi poco più di 40. I soldi si prendono da tagli strutturali alla spesa pubblica nei capitoli che non hanno a vedere col welfare, la scuola e la ricerca. Dunque non si toccano welfare, scuola e ricerca, ma tagliare spesa pubblica, dice il responsabile economico della segreteria del PD. E ancora, lei aveva ipotizzato un piano di tagli da 16 miliardi l'anno. Risponde Taddei, c'è una spesa in eccesso di un punto di PIL, dunque appunto 16 miliardi. In che settori? Gli organi legislativi, il governo e la diplomazia. Su queste voci l'Italia ha un differenziale di spesa importante rispetto a Germania e Gran Bretagna. Nel dettaglio, dove vorrebbe tagliare? Chiede l'Unità. C'è un lavoro eccellente di indagine dell'economista Roberto Perotti per vedere dove alberga l'eccesso di spesa, dal Parlamento alla Corte Costituzionale alla Corte dei Conti. Vorrei approfondire in questa direzione. Ecco, tra l'altro Perotti è stato ospite la nostra settimana due o tre volte negli ultimi 10 giorni proprio a parlare degli sprechi su Corte Costituzionale le spese della cosiddetta spese della politica, e quindi è su questo che si concentra il responsabile economico del partito. C'è intervistata anche sull'Unità Marianna Madia, deputata che tra l'altro racconta a Simone Collini, sono in attesa del secondo figlio, quando mi ha chiamato Renzi dice ma no, io ho un figlio e tra 3 mesi me ne nasce un altro, e Renzi mi ha risposto sei proprio nella posizione avvantaggiata, perché questo è un valore aggiunto, oggi si fanno così tante difficoltà alle madri che lavorano, e dunque Marianna Madia si deve occupare dell'aspetto lavoro. Comunque ieri Renzi ha incontrato Letta. Allora qui la domanda e la questione politica è semplice, al di là delle dichiarazioni di facciata, i due hanno fatto questa dichiarazione congiunta alla fine dell'incontro di un'ora, e cioè lavoreremo insieme. Tutti i giornali raccontano che questo lavoreremo insieme è la dichiarazione che viene fatta così all'esterno, ma che in realtà i primi problemi, soprattutto sulla riforma elettorale, sono venuti fuori, e cioè Renzi dice la riforma elettorale la voglio fare io, non tanto, non spetta al governo, spetta al Parlamento, dove il Partito Democratico ha una maggioranza e ora il Partito Democratico è guidato da Matteo Renzi. Ecco infatti il retroscena del Messaggero a pagina 3, le condizioni di Matteo al Premier, subito il doppio turno o tutti a casa. racconta il Messaggero che con Marco Conti, che al di là appunto di questa dichiarazione di facciata, Renzi ha detto ai suoi: se ci fanno perdere tempo c'è sempre il Mattarellum, i numeri per fare l'accordo ci sono sia con Forza Italia sia con Grillo. E anche il retroscena di Repubblica, firma Francesco Bei a pagina 3, è proprio questo: l'OPA di Matteo sulla legge elettorale me ne occupo io, non l'esecutivo, parlerò pure con Grillo e Berlusconi. È un Matteo Renzi che appunto su questo non cede: voglio vedere se si riesce a fare un accordo con Forza Italia e SEL, intendo trattare senza preclusioni, ha detto ai suoi, e ha aggiunto anche, secondo il Corriere della Sera, noi detteremo la linea, siamo il Partito Democratico, detteremo la linea di quello che il governo deve fare, e se non ci seguono tanto vale andare a votare. Ecco dunque che subito parte il tormentone di quanto Matteo Renzi sosterrà il governo, e il governo che deve fare le cose che l'agenda del PD, del nuovo PD, detterà. Caro Letta, una nuova legge elettorale subito o cambiamo maggioranza? Ecco l'esplicitazione del titolo a pagina 5 del Fatto Quotidiano. Fabrizio D'Esposito racconta il retroscena della politica e questo primo braccio di ferro tra il Premier e quello che viene definito ancora il rottamatore. Nonostante il comunicato di circostanza alla fine dell'incontro, lavoreremo bene insieme, ma si fa capire che non è proprio così. Anche per il giornale, il diktat di Renzi a Letta: alle riforme ci penso io. Addirittura per Libero c'è la foto, questa foto che viene messa, che è stata messa sul profilo Twitter dell'incontro tra Letta e Renzi, sono Letta e Renzi sorridenti, ma il titolo di Libero è questo: Matteo prende le misure alla sedia di Letta, come dire, vuole già arrivare a quel posto. Poi c'è tutta una serie di interviste e di analisi su quello che è la fine di un Partito Democratico con l'arrivo di Matteo Renzi, la fine, qualcuno dice, di quella transizione che c'è stata dal comunismo al posto del comunismo, con i segretari Franceschini, Veltroni e poi l'ultimo Bersani, che tra l'altro fa tre interviste oggi a Ilario Lombardo sul Secolo XIX, a Andrea Malaguti sulla Stampa e a Tommaso Ciriaco di Repubblica. Dice in pratica: la sinistra, ecco, questo è lo slogan più bello che dovete tenere ben impresso: la sinistra è come un fiore di campo, vedrete, rinascerà. Così parlò Bersani, per Luigi Bersani, intervistato dai quotidiani che ho citato. Ma soprattutto c'è chi non vuole farsi da parte, o meglio promette battaglia, è Massimo D'Alema. Nomenclatura rossa sotto shock, questo è il titolo del Quotidiano Nazionale a pagina 10, ma D'Alema dice: daremo battaglia. Gli ex diessini messi all'angolo, anche il sottosegretario, o meglio vice ministro dell'economia Fassina, dice: noi finiti per niente. Promettono dunque battaglia. Si vede anche una persona finora assolutamente discreta, vale a dire la moglie di Matteo Renzi, Agnese. Qualche domanda e risposta a Eva Desiderio del Quotidiano Nazionale: parla già da First Lady sulla scuola, Matteo ascolta me, dice in questa breve intervista. Qualche parola anche a Repubblica, Simona Poli: sono felice per il paese ma non per me. E beh, certo, probabilmente ora vedrà ancora meno il marito Matteo Renzi. Ma io voglio salutare, prima di continuare sulla politica, Mauro Meazza, eccolo, ben trovato, ben ritornato. Ah no, sono io che ieri non c'ero. Sei tu che non c'eri. Ho bigiato per non farti interrogare sul libro. È chiaro. Però lo sai che anche oggi, Sole 24 Ore, io speravo, ti offre la possibilità di speravo, ma temo che tutti i giorni dovrei bigiare tutti i giorni da qui all'eternità, per non rispondere sull'IMU, IMU che è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, caro Mauro. Eh sì, perché tu sai, per caso temi o immagini che il saldo che devi pagare sia uguale all'acconto che hai pagato a giugno? Forse è di più. Non lo sai. No, non lo so. Lo so che non lo sai, pazienza. No, non sarà uguale, te lo spiega Gianni Trovati, in molti casi non sarà uguale. E guarda, potrebbe anche aumentarti del 70-80%, perché se il comune ha deciso nel frattempo degli aumenti di aliquote, ebbene, tu sulla seconda casa, ma anche su una seconda pertinenza di prima casa, paghi. Se non hai capito, non hai seguito in questi giorni, sulle 24 ore, leggi oggi, puoi fare un ripasso. Perfetto, anche oggi. Ah, fantastico, sono quelle cose che poi, come i bigini, che poi dopo... Sì, ti abbiamo fatto un bignamino ancora del limo, poi però veramente la tua situazione, Alessandro, si fa davvero delicata, io te lo voglio dire, siamo solo... È una prima fase dell'anno scolastico, ma guarda, non ti stai portando niente bene. Assolutamente. Senti, sei ritardatario come la pubblica amministrazione nel pagare le fatture. Oh. Guarda la prima pagina della nostra sezione imprese e territori, non c'è una ASL, una, che paghi in tempo. Questa è una cosa terribile che c'è da anni e che viene ogni tanto denunciata, insomma, però mai abbastanza. Davvero una cosa, cioè lo Stato che non paga, in questo caso la pubblica amministrazione, le ASL che non pagano, nessuno paga nei termini giusti. Nei termini stabiliti, no, sembra proprio una specie di, come dire, di condanna quasi di destino. Ma non avevano fatto un decreto legge, legge. Infatti qualcosa spieghiamo, lo spiega bene Laura Cavestri, lo commenta bene Lello Naso, qualcosa è migliorato, però la sostanza è che ci sono dei, come dire, degli ambiti refrattari a questa regola dei 60 giorni, quindi vanno più lunghi. E cosa ci dobbiamo fare? Aspettiamo. Certo non è, come dire, non è semplicissimo, perché poi chiaramente non prendere i soldi vuol dire che neanche te li prestano, come riferiamo in altra parte del Sole 24 Ore, c'è stato un calo molto forte di prestiti alle imprese. E ci sono purtroppo imprenditori che sono anche falliti proprio per questa mancanza di liquidità che attendono. E infatti questo è stato... Comunque, senti, se tu volessi aprire una partita IVA, io non so in che condizioni fiscali tu ti trovi, sappi che oggi con il Sole 24 Ore diamo anche un quaderno, tutte le risposte per gestire la partita IVA dall'apertura fino alle gestioni più complesse, le questioni più complesse, ci sono 120 risposte selezionate appunto dai nostri esperti, così almeno puoi avere un po' più di preparazione. Vabbè, però questa, non ti interrogo sulla partita. No, va bene, ma questa la leggerò. Grazie Mauro, ci troviamo ovviamente domani mattina e noi andiamo alle informazioni sul traffico, poi continuiamo con le altre notizie dei giornali. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, per chiudere la politica, ma non so se chiudere perché forse ci sarà una sorpresina finale in rassegna stampa. Comunque anche Silvio Berlusconi ieri si è sentito in dovere di alzare il telefono e chiamare Matteo Renzi, come raccontano tutti i giornali. Berlusconi telefona di notte a Renzi, titola Repubblica, pagina 13. Bravo, ma ti va bene che io sono out. Era a un pranzo con Michaela Biancofiore, Anna Grazia Calabria, alcuni dei suoi, con la fidanzata Francesca Pascale. Che dite, lo chiamo adesso o domani? Chiede Berlusconi. È da poco trascorsa la mezzanotte. Dai presidente, chiamala adesso, lo convincono le donne al tavolo. Lui si fa passare il sindaco di Firenze al telefono, non appena Renzi risponde scatta l'applauso delle signore presenti. Bravo! Cioè Biancofiore e Anna Grazia Calabria che applaudono la vittoria di Renzi. Un Renzi imbarazzato, racconta Repubblica, risponde solo complimenti, risponde solo grazie. E Berlusconi, complimenti, sei stato bravo, ma non mi stupisce. È da quando sei venuto a trovarmi ad Arcore che ho capito che hai del talento, sei un bravo comunicatore. Anche se gli dice Berlusconi, però... sei fortunato perché io non mi posso candidare, ed è un po' come a questo punto giocare una partita tra il Milan e la Solbiatese, che tra l'altro aggiungo io in questi tempi non so mica chi vince tra il Milan e la Solbiatese. Comunque, insomma, a parte questa quisquiglia, insomma, questo è quello che Berlusconi ha detto a Matteo Renzi nella telefonata. A proposito di Berlusconi e berlusconismo, allora a volte hanno fatto notare che anche Berlusconi ha proceduto a una sorta di piccola rottamazione, nel senso che Santanchè, Verdini, insomma molti della vecchia guardia non erano presenti al lancio dei club Forza Silvio. Ebbene, Per Daniela Santanchè oggi anche una notizia del Fatto Quotidiano, un'intera pagina che magari non le farà piacere. Il titolo è questo: a Courmayeur la Santanchè vive in un negozio. La denuncia di Marco Lillo del Fatto Quotidiano: la villa dove trascorre le vacanze invernali Daniela Santanchè in realtà è un locale commerciale affittato dalla società Visibilia, di cui Daniela Santanchè è socio di maggioranza. Non è dunque un'abitazione ma un locale a uso commerciale. E c'è un'intera pagina. Nonostante tra l'altro questa società non navigasse in buone acque, l'azienda ha ottenuto dalla Banca Popolare di Milano in epoca Ponzellini fideiussioni, e questa è la denuncia del Fatto Quotidiano. Insomma, quando va a Courmayeur, a Courma non sta nella sua villa ma sta appunto in un negozio a uso commerciale. Va bene. Ci sono due notizie di cronaca che trovate sui giornali. La prima, il Corriere della Sera, ve la voglio segnalare, un'intera pagina di Marco Imarisio: i quattro notav arrestati e l'accusa per loro è di terrorismo. Sono notav che sono stati arrestati ed è una linea dura, reato contestato per la prima volta dal giudice per le indagini preliminari per l'assalto a un cantiere di un'azienda che lavora per la TAV a Chiomonte. Ebbene, l'accusa è appunto avere fatto un attentato con finalità terroristiche, atto di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi, detenzioni di armi da guerra, danneggiamento. Un'operazione di 30 persone divisi in tre gruppi, 21 operativi, 6 autisti, una vedetta sulla statale 25, un'altra in avascoperta nei boschi davanti al quartiere. Questo boicottaggio attivo, come era stato definito dai manifestanti, invece per il giudice le persone arrestate devono rispondere di queste accuse gravissime. Ed è la prima volta che viene usata questa linea dura: terrorismo. L'altra notizia di cronaca che vi voglio segnalare: continua il processo, l'abbiamo sentito nel giornale radio, anche al comandante Schettino per la vicenda della Concordia, e ieri si sono visti per la prima volta dopo 2 anni in aula, faccia a faccia, il comandante Schettino e il capitano Gregorio De Falco, quello del vada a bordo, salga a bordo, aggiungendo poi quell'esclamazione di cui lo stesso De Falco gli era chiesto scusa in aula. E l'incredibile show di Schettino è stato questo: De Falco era lui fuori controllo. Insomma, Schettino, ribaltando la situazione, dice: ho cercato di stabilire in tutti i modi un dialogo propositivo, ma dal comandante De Falco ricevevo solo ordini perentori in tono sprezzante. E quel vada a bordo, insomma, che forse non è andato giù a Schettino, che ora ribalta le accuse dicendo: era sprezzante nei miei confronti. Ma eccoci qua, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Ebbene sì, l'ho detto, ve l'ho detto da tempi non sospetti, arriva il duduismo, siamo in piena epoca duduista. E allora abbonderanno gli articoli. D'altronde Berlusconi ha detto: voglio puntare ai voti degli animalisti. Eccolo qui, il Corriere della Sera, Tommaso Labate, a pagina 13, che ci scrive un bell'articolo dal titolo: parte forza Dudù, il piano animalista del Cavaliere. Berlusconi che dice da tempo: odio le pellicce, un regalo che mai farei a una donna, ha lanciato forza Dudù. Due indizi che vengono uniti alla prova, cioè al lancio del sito internet Forza Dudù. Insomma, punta agli animalisti. Berlusconi ha anche pensato nell'immaginare la struttura di punti di ascolto e sostegno per chiunque abbia difficoltà nella sua vita con l'animale domestico. Basta questi articoli, vi prego, non fatene più neanche mezzo. Caro Tommaso Labate, la carta costa anche al Corriere della Sera, il giornale radio.